Rock FM. Pane, burro e rock and roll. Diamo il buongiorno al sole anche quest'oggi. Perché non farsi aiutare dal buon Wilson Pickett, non è vero? Hello. Yeah. Sunshine. Come on, baby. I'm so glad to see you. Sunshine. È uno di quei ritornelli che nella scorsa stagione utilizzavamo per quello che chiamavamo reparto musicoterapia. Una signorina che scende il cane. Questo è sempre che intravedo qui nella diretta. Vado a salutare Laura via SMS. Grazie per questo sfavillante inizio di giornata. Le mie orecchie vi abbracciano. A proposito di amici che spargono la voce, saluto Marco da Viale Sarca. Da oggi avete un nuovo ascoltatore, si chiama Aaron, potete salutarlo. Rompo le scatole a tutti per diffondere il vostro verbo. Marco, tu sei bravo. Yeah. Sunshine. I'm so glad. I'm so glad. Sunshine. Andiamo da un amico tassista. Si firma Tino. Sunshine. Per il mio taxi sto già al lavoro e grazie a voi si inizia alla grande. Vi voglio persino bene. E chiude il messaggio scrivendo io gnafo. Ti si avvicini Tino, tranquillo. Ultimo saluto a questo radioascoltatore che probabilmente prende per vero quando dico che siamo pronti ad aiutarvi. Mi scrive semplicemente: potreste ospitarmi in radio perché arrivano i miei suoceri. Bisogna vedere, adesso caro Oscar facciamo due calcoli e vediamo. Sì, una brandina effettivamente ci sta, eh. Però non vorrei poi creare un precedente pericoloso. Si chiamano Faces e Pane, Burro e Rock and Roll prosegue con la bellissima Stay With Me. 7:31 minuti primi. La colazione di Rock FM, quella che non trovate nelle altre stazioni radiofoniche. Cercatela pure, ma è solo qui. Eh sì, il contratto l'abbiamo qui. Thank you. rispondono al nome di Faces e anche loro ci tengono a invitarvi a restare con noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Stay with me. 7:35 minuti primi. Ricordo velocemente il numero di SMS, linea di contatto con voi là fuori. Segnatevelo, magari memorizzatelo. Scrivete pure Ariele. 335-100-77-77. Questo problema dei suoceri che aveva il radioascoltatore, l'ultimo messaggio che ho letto, sembra comune ad altri, perché è un messaggio toscano che ci dà il bentornato sull'etere. Cerchiamo di svegliare, scrive chi guida come il sottoscritto, Livorno-Fiumicino andata e ritorno, perché arrivano i suoceri. Problema comune stamattina, i suoceri, almeno per un paio di radioascoltatori. Un saluto particolare anche ad Andrea, che chiederebbe una mano a noi di Pane, Burro e Rock and Roll per trovare una buona scusa per chi si è dimenticato di comprare quello che gli aveva ordinato il capo. Non so che cosa dirgli, mi aveva pure dato i soldi. Andrea, ti chiederei però, per farci formulare una scusa giusta, magari farci aiutare anche dagli altri radioascoltatori, di specificare che cifra ti aveva consegnato il capo, per capire di cosa stiamo parlando, e che cosa avresti dovuto comprargli, se si può dire. Poi noi tenteremo di darti una mano, chiederemo aiuto anche ai radioascoltatori o al buon Freak, che di scuse buone ne ha sempre una pronta. Avremo, tra l'altro, a questo proposito, anche quest'oggi, l'immancabile appuntamento con il ritardatario ritardato. Come accennavo ieri, non siamo soliti dare notizie di cronaca, ma anche quest'oggi, e tra l'altro ringrazio anche Gianfranco, il nostro mitico radioascoltatore napoletano, che ci ascolta, presumo grazie allo streaming di RadioRockFM.com, che c'è un'altra brutta notizia questa mattina, un'ultima ora: è morto Luciano Pavarotti, si è spento a 71 anni, stroncato da un cancro al pancreas contro il quale si era battuto per molti mesi. Il tenore, leggo, è morto alle 5 di mattina nella sua villa alla periferia di Modena, dove aveva voluto trascorrere i suoi ultimi giorni, incontrandovi solo la moglie Nicoletta Mantovani, la prima moglie Adua, gli amici più stretti e il manager Terry Robson, che ha dato la notizia della morte dettando un comunicato stampa all'Associated Press. E allora purtroppo si è spenta un'altra delle grandi voci italiane, il tenore Luciano Pavarotti. Grazie Gianfranco per la segnalazione. 7:38 minuti primi. Pane, Burro e Rock and Roll prosegue con Carlos Santana. Oyo, come va? Gna fai o gna fai? Mi piace quando scrivete gna fo o gna fo. È grammaticamente divertente. E via! Mister Trombetta, ciao, ci sei anche tu oggi. Non ti avevo ancora salutato, scusami, perdonami, grave dimenticanza. We'll be right back. dovreste averlo capito, dedicheremo ogni giorno un piccolo spazio, un piccolo intervento a salutare i tanti amici e le tante amiche che hanno permesso alla cartolina di postale di sopravvivere in questa estate 2007, semplicemente scrivendocela a Pane, Burro e Rock'n'Roll, via Locatelli 1, 20124 Milano. Voi sapete, noi stiamo cercando qui a Pane, Burro e Rock'n'Roll di arginare lo strapotere della tecnologia, degli sms, dei computer. Oggi nessuno scrive più. E la cartolina si sta estinguendo. Fortuna che ci siete voi che ci avete scritto e noi vi ringrazieremo uno per uno. Ricordavamo che per tentare di snodare il difficile compito di salutarvi tutti quanti, abbiamo diviso, suddiviso in categorie le varie cartoline che sono arrivate, così per aiutarci anche più a scegliere la più bella che vi diremo nel corso delle prossime settimane. Quest'oggi affrontiamo il reparto varie. Cioè, ci sono alcune cartoline che non siamo riusciti a mettere da nessuna parte, come per esempio questa di Torrelapillo. Torrelapillo. Torrelapillo. Dove si trova Torrelapillo? In Salento, Puglia, Italy, le famose Torre dell'Apillo, Lecce. Chi non conosce Torrelapillo? Stavo leggendo. Ce la spedisce. La cosa più difficile di questi interventi sulle cartoline è decifrare le firme. Esatto. Donatella e Davide. Esatto. E Davie, oppure. O Daria. O Daria, stavo pensando anch'io Daria in questo momento. Donatella comunque Donatella c'è, e da Torre Papillo, solo loro ce l'hanno mandata. Ciao Ariele, ciao Freak, non facciamola estinguere. Con ben tre punti esclamativi, non facciamola estinguere. Il messaggio è stato recepito, una breve descrizione di questa Torre Papillo, la prego. Sì, la cartolina è suddivisa in due parti. Da una parte, nella parte bassa, la spiaggia di sabbia, la famosa sabbia di Torrelapillo. Di Torrelapillo, sì. E sopra il famoso mare di Torrelapillo. Sì, in lontananza, all'orizzonte, una crosta. Una crostata, si può dire, una sezione di crostata del porto, probabilmente di Torrelapillo. Ma attenzione, colpo di scena, perché tra le tantissime cartoline arrivate a Pane, Burro e Rock'n'Roll a favore della cartolina postale, ce n'è una che ha attirato la nostra attenzione più di tutti. Ce la scrive, nome e cognome, Elena Chiodaroli, che tra l'altro in un post scriptum, la prego di notare, sì, scrive anche: yes, se avete bisogno di un DJ, e lascia il suo numero di cellulare. Ma attenzione, questa cartolina non è intestata a Pane, Burro e Rock'n'Roll, bensì a Radio 101 Network, via Locatelli 1. Colpo di scena. Colpo di scena. Elena, finita qui, pur non sapendolo, hai capito, voleva spedirla a un'altra radio, l'ha spedita a noi e ha salvato anche lei la cartolina postale. Complimenti. Grazie Elena, non, probabilmente non sentirà mai questo ringraziamento, perché pensava fosse arrivata a un'altra radio. Forse la gireremo noi a 101. Sì, lo faremo. Io me la terrei per me, però. Beh, o è arrivata qui, io me la terrei per me. Forse se lei ha sbagliato l'indirizzo non è colpa mia. Rimaniamo sul vago, forse in futuro lo faremo. Dal meraviglioso Duna Verde, presumo un hotel di Caorle in provincia di Venezia, ringraziamo tra le tante anche Elena, che pur non mi piaceva questa idea, anche senza saperlo ci ha aiutato anche lei. Grazie Elena. Grazie comunque, grazie Elena. Tra l'altro la prossima estate sai cosa facciamo, Frick? Salviamo la cartolina postale, ma facendo spedire le cartoline alle altre radio. Potrebbe essere un'idea, ci pensiamo su. Lo so, sarebbe una bella evoluzione del programma Salviamo la cartolina postale. I'm gonna take it to the moon. My Heart Again, la carica dei Whitesnake per proseguire la mattina. 7:50 minuti primi, la voce che sentite risponde al nome dell'Ariele, eccomi qua, ciao ciao, il buon Spadino in regia e Roberto Friccantoni come il prezzemolo, sì, proprio lui, ad aiutarci nello sviluppo di questo programma mattutino che risponde al nome di Pane, Burro e Rock and Roll. Così tanto per fare il cappello introduttivo, perché si fosse sintonizzato solo ora, visto che voi state spargendo la voce e intravedo anche dai messaggi che in molti sono i nuovi arrivati, come per esempio questo Aurod Drum Machine. Ho capito bene il vostro numero, scrive sì, perché sto leggendo il messaggio. Un saluto da un nuovo ascoltatore, Gnafamo, scrive tra l'altro. Sono, come al solito, già troppi messaggi e non riuscirò a districarmi, se non che voglio mettere un punto fisso sul radioascoltatore che ha bisogno di una mano. Non prima però di aver aiutato con una strombazzata, come da copione qui a Pane, Burro e Rock and Roll. Vediamo qui, un amico Matteo che sta andando a sostenere il test d'ammissione alla normale, che il rock and roll sia con me, scrive. Anche se la normale, si ascolti Pane, Burro e Rock and Roll, scusa la battuta terribile, ma non dovrebbe andare benissimo. Sarebbe meglio la anormale. E un saluto anche a Jimmy, con allegata strombazzata anche per lui. Oggi ho il test per entrare in facoltà. Speriamo che lo spirito del rock and roll mi dia ancora una volta una mano. Sarà lì il rock and roll a vegliare sopra di voi. Tornerei invece a bomba sull'amico che aveva un grosso problema. Era questo il suo capolavoro, non nel senso di opera d'arte, il suo capo di lavoro. Bel gioco di parole questo, Frick, eh? Da segnare questo. Gli ha consegnato dei soldi, lui non ha acquistato quello che doveva comprare e voleva una buona scusa. Ho chiesto di specificare, mi specifica che la cifra in questione è 25 euro che gli sono stati consegnati per un pezzo di ricambio del tosa erba, del rasa erba. Quindi spremetevi le meningi, soprattutto voi in coda che non sapete cosa fare, segnalateci una buona scusa per l'amico Andrea. Non ricordo male, ecco, si chiamava Andrea. Dovete scusare la mancanza di acquisto di un pezzo di ricambio del raserva di 25 euro. Senza nemmeno sapere quanto queste specifiche, avevamo già un aiuto firmato William, che ad Andrea proponeva in toscanaccio lo scrive così il messaggio, di Arcapo, che ha incontrato un tegame che gli ha tirato un ciuccione in auto e si è distratto. Ciao William. Non starò a tradurre, anzi farò finta di non aver capito cosa ho letto, ma grazie William per la segnalazione. Hai raccolto il messaggio nella bottiglia lanciato da Andrea. Eh? Che professionista. Però perdonami Spadino, adesso non vorrei farti una figuraccia, ma non puoi farmi partire i Police così senza annunciarli bene, anche perché uno dei brani più belli della storia del rock, esatto, ricaricamolo, scusa, fammelo annunciare bene, Police. Message in a bottle. Ah no? Oh, Pane burro e rock and roll ti aiuta a mantenere gengive forti e a proteggere i denti dal taglio. Pane burro e rock and roll, la forza delle gengive, la vita dei denti. E beh, che c'è?